La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buon pomeriggio, buona serata a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi in una settimana ancora bella densa di film e di spunti di interesse in sala sul grande schermo. Una decina di film, alcune novità molto interessanti e anche dei grandi ritorni, degli splendidi ritorni di cui parleremo, come per esempio Un americano a Parigi, che è ritornato nelle sale italiane nello splendore di una coppia restaurata davvero mozzafiato. Sarà anche la puntata in cui avremo ospite in intervista esclusiva Nicholas Winding Refn, uno dei grandi registi ormai emersi, diciamo, tanto per dire Drive, tanto per dirne una, che esce con il suo nuovo film che si intitola The Neon Demon, e l'abbiamo avvicinato e intervistato a Milano. Tra l'altro si era appena incontrato con Dario Argento, è stato un incontro abbastanza particolare. Insomma, tutto questo, come sempre giochi, come sempre film da indovinare per vincerli, come sempre tutto il cinema da vedere in casa. Allora cominciamo con le proposte sul grande schermo, il ritorno di un attore che io diciamo amo molto, o ho amato molto, questo devo deciderlo ancora, perché negli ultimi tempi qualche sua scelta magari non è stata proprio delle più felici. Speriamo che non sia così con In nome di mia figlia. Stiamo parlando di Daniel Auteuil. Papà! Allora, tesoro, com'è andato lo spettacolo? Ti presento il dottor Krumbach. È il papà di Lena, in classe con Kalinka. Sì, sì, sono molto amiche, mi sembra. Sì, vanno molto d'accordo. Lena mi parla sempre di Kalinka. Ciao, papà. Buone vacanze, tesoro. Grazie, anche a te. Cos'è successo? Cosa è successo? È successo che Kalinka, ragazzina quattordicenne, siamo nell'82, muore mentre è in vacanza in Germania col patrigno e con la madre. Il padre, André, dall'inizio non è convinto che si tratti di una morte naturale, comincia a indagare e i primi dettagli sembrano dargli ragione. Man mano che andrà avanti scoprirà davvero tutto quello che c'è dietro la morte della figlia. In nome di mia figlia è il titolo del film con Daniel Auteuil, dramma familiare potremmo dire. Lo chiediamo a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Vincent Garenc, il regista, tra l'altro è passato anche in Italia per presentare il film, un film che è, diciamo, appartiene a un filone abbastanza classico, quello del dramma familiare. Sì, da una parte in alcuni momenti sembra quasi Taken, no? Con Liam Neeson che dice che cosa è successo, queste insomma uscite che vengono poi amplificate dal doppiaggio italiano. Però il dramma familiare, appunto la perdita, l'ingiustizia drammatica di sopravvivere al proprio figlio è un genere strappalacrime e anche molto molto redditizio al cinema. Direi anche in letteratura sostanzialmente, cioè veramente un genere di racconto e di narrazione di cui non si può fare a meno, perché chiaramente essendo una tragedia inimmaginabile è una sfida per chi l'affronta. Mentre ti ascoltavo mi rendevo conto che anch'io non ti so dire se Daniel Auteuil mi piace ancora così tanto come prima. Cerco di darmi una risposta facendo questa recensione, perché Il nome di mia figlia mi sembra esattamente la fotografia dell'ultima parte della carriera di Daniel Auteuil, cioè quella parte in cui ormai il suo talento è così smaccatamente evidente e la sua padronanza del mestiere è così enorme che c'è sostanzialmente un mutuo accordo tra lui e i suoi registi. Lui è disposto ad accettare anche film scritti non perfettamente e diretti non alla grande, e loro si affidano completamente a lui. Questo fa sì che i suoi film siano sempre imperfetti, ma lui sia sempre straordinario. Non so se è un modo narcisista di interpretare il proprio lavoro, perché io preferisco di gran lunga l'Auteuil che si affida nei film di genere a Marshall, oppure quello di Niente da nascondere, con Haneke che lo tiene con le redini molto ben salde. Però Il nome di mia figlia alla fine secondo me è un esperimento riuscito, perché se è vero che va a pescare in un genere molto praticato, lo inserisce all'interno di un contesto noir, giudiziario e anche emotivo che non è poi così banale, che è scritto in maniera perlomeno lineare e intelligente, probabilmente il problema lì è Vincent Galenc, che non riesce ad essere all'altezza né della storia, che è una storia molto pesante e pensante, e neanche del suo attore, che però si prende il film sulle spalle. Alla fine io sfido chiunque a non emozionarsi e a non voler sapere con tutto se stesso qual è la verità su questa povera bambina, qual è la verità anche su questo padre che sostanzialmente, di cui sostanzialmente viviamo l'ossessione, perché poi questo è un film su un'ossessione. E questo allora è In nome di mia figlia di Vincent Galenc, con abbiamo detto appunto la presenza di Daniel Auteuil. E noi sentiamo come vanno le cose sulle strade adesso, perché fra poco entriamo nelle atmosfere horror quasi vampiresche mischiate a tutti i lustrini e le paillette del mondo della moda nel nuovo film di Nicholas Winding Refn, The Neon. La rosa purpurea. Eccoci ancora, La rosa purpurea prosegue con The Neon Demon, il nuovo film di Nicholas Winding Refn, tra l'altro reduce proprio da pochi giorni dal Festival di Cannes, quindi un film che arriva anche subito in Italia, subito dopo l'onda di Cannes. Nicholas Winding Refn è venuto a presentare il film dalle nostre parti, lo ha portato, lo ha coccolato il regista danese. Ricordiamo appunto i suoi film più celebri, recenti, Solo Dio Perdona, Drive, tanto per dirne alcuni. Qui in un film che sposa una sorta di genere particolare, cioè sublima un amore che c'è da parte di Nicholas Winding Refn per l'horror classico, ma apre anche tutto un dibattito importante sul ruolo, anche perverso, della bellezza nel mondo di oggi. Vedo 20-30 ragazzi al giorno qui in agenzia. La maggior parte viene da piccole città e ha grandi speranze. Sono tutte belle. Ma tu diventerai una star. La bellezza non è tutto. È l'unica cosa. So quello che sembro. Certe ragazze ucciderebbero per assomigliarmi. Mia madre lo diceva sempre. Sono pericolosa. Insomma, la bellezza è pericolosa, Boris. Sembra proprio così, dopo aver visto questo film, che a Cannes ha avuto esiti abbastanza alterni. C'è chi lo ha abbastanza apprezzato, c'è chi lo ha un po' schifato, c'è chi ha parlato di un Refn un po', come dire, ombelicale. A me, devo dirti, il film è piaciuto. A me il film è piaciuto perché ho trovato che ci sia dentro un grande stile di regia, e questo lo sapevamo, perché Refn è uno che usa la macchina da presa in maniera molto personale, con grande ritmo, con grande uso dei primi piani, con grandissimo uso del sonoro, che è sempre una delle sue delle grandi qualità, ma anche per i contenuti, diciamo, oltre che estetici, anche etici. È un film che racconta di come la bellezza possa diventare un'ossessione, di come lo sia già nella nostra società, di come questa ragazza, che è Elle Fanning, bellissima ovviamente, bellezza naturale, che arriva dalla provincia alla grande città americana, Los Angeles, per entrare nel mondo della moda, lei ancora minorenne, quindi con un segreto anche da custodire, sia vissuta come un pericolo da quelle che sono le sue colleghe appena più grandi, 20 anni, 21 anni, che però sentono, perché per la moda sei quasi vecchia già a quell'età, sentono un pochino il tempo che passa, e vorrebbero appropriarsi da dentro della sua anima, quasi bevendo il suo sangue, per diventare come lei. L'avete sentito anche nel trailer, qualcuno ucciderebbe per diventare come me. E allora la soluzione che ci dà, e che ovviamente non vogliamo svelare, Nicholas Winding Refn nel film è una soluzione estrema, diciamo così, che però secondo me restituisce un po' quello che è diventato un tema fuori controllo del nostro tempo, ovvero la gestione e l'ossessione della bellezza. Sì, assolutamente. I film di Winding Refn sono film sulle ossessioni, e quello che mi colpisce è che forse i film più belli di questa settimana che escono qui in Italia sono film sulle ossessioni. Secondo me è difficile costruire una critica classica sui film di questo regista, perché c'è uno spazio che è riservato all'emotività, uno spazio che è riservato alla pura potenza dell'immagine, che è molto più ampio rispetto a qualsiasi altro regista in questo momento in attività. The Neon Demon è uno stranissimo oggetto cinematografico, innanzitutto, secondo me. Sbaglia chi vuole fare il tifo e dice è brutto o è bello, oppure è riuscito o non è riuscito. Secondo me siamo proprio su un altro piano di giudizio. Sono d'accordo con te, è un film straordinario sotto il profilo della regia, davvero straordinario. Io ci ho rivisto addirittura il Refn ancora prima di Drive, quello ancora più libero, estremo, estetizzante. Qui passa dall'horror quasi senza sangue alla videoinstallazione, c'è un'enormità di linguaggi cinematografici che si accavallano l'uno con l'altro. Utilizza Elle Fanning con la stessa facilità e felicità con cui aveva usato Ryan Gosling, riuscendo a tirar fuori il suo meglio. E alla fine, in un mondo che è schiavo dell'apparenza e totalmente dedito all'apparenza, lui costruisce un film in cui l'apparenza è straordinaria e diventa contenuto. Forse l'unica cosa che non mi convince tanto di questo film, anzi le uniche cose che non mi convincono tanto di questo film sono due. Uno è anche però un pregio: dopo Drive, Winding Refn ha scelto una strada di libertà totale, assoluta, che però vuol dire anche assenza di redini sulla storia, sulla sceneggiatura e sulla propria stessa regia. Fa sostanzialmente quello che vuole, con una totale incapacità di porsi dei limiti. In Solo Dio Perdona questo portava a un disastro, qui secondo me invece porta a tante scene interessanti, ma anche a un film che fa fatica a rimanere unito, a rimanere su un piano anche fruibile a un certo punto. E l'altro è che è curiosissima questa sceneggiatura, scritta da donne, e che è forse una delle sceneggiature più misogine che io abbia mai visto su uno schermo, con un disincanto inquietante rispetto alla figura femminile, diretto da un regista che invece aveva imperniato la sua cinematografia sulle figure maschili, anche se in Drive insomma c'era anche una figura femminile forte. Però proprio perché ne stiamo parlando, secondo me The Neon Demon ha la sua eccezionalità proprio nel costruirsi all'interno del cinema come qualcosa di altro, e qualcosa che ti porta a riflettere profondamente anche sul mezzo cinema. Non vorrei fare incredibili paragoni, ma è un po' come 2001 Odissea nello spazio, non è solo ed esclusivamente cinema, e quindi dobbiamo giudicarlo in maniera diversa. È un film incompleto, incompiuto, ma non mi sentirei di dire a nessuno di non vederlo. Assolutamente da vedere come film per chi ama il cinema, perché come hai detto giustamente tu, Boris, è un film che ci spiega anche quanti cinema ci sono e quanti possono essere contenuti all'interno dello stesso film. Uno dei cinema che è contenuto in questo film è sicuramente la vena dell'horror classico, tant'è vero che mentre intervistavo Nicolas Winding Refn, lì c'era Dario Argento, i due si sono messi a chiacchierare, a mangiare qualcosa insieme, si è capito che lui è un devoto di Dario Argento, e questo tipo di valutazione fa parte dell'intervista esclusiva per La Rosa Purpura che andiamo ad ascoltare. La prima domanda che volevo fare a Nicolas dopo aver visto questo film così a caldo è relativamente al tema della bellezza, che mi sembra il tema dominante di questo film, e di cosa la bellezza è diventata, diciamo, nei nostri tempi, insomma. È qualcosa che si tende a raggiungere, e chiedo innanzitutto se si può lavorare sulla bellezza o se la bellezza è solo una dote naturale. Well, I think beauty is a very complex subject because everyone has opinions about it. Penso che la bellezza sia qualcosa di piuttosto complesso, sulla quale ognuno ha una sua opinione, talvolta influenzata da ragioni filosofiche, politiche, emozionali. Esiste la bellezza fisica e quella interiore. Nel film si celebra il narcisismo. L'amore per se stessi è l'obiettivo definitivo. Una tematica perfettamente in linea con l'attualità delle giovani generazioni, perché mette in evidenza che si può rompere il tabù del narcisismo trasformandolo in qualcosa di positivo, che poi diventa parte di noi. Change it into something positive. You accept that part of you. And with that, of course, comes this very great question, which is, are you born beautiful or not? Because that. Poi c'è la grande domanda: si nasce belli o no? un tema che va in contrasto con il concetto di uguaglianza che c'è nella nostra società sin dal dopoguerra. Ma se da una parte l'ossessione della bellezza spesso prende il sopravvento, c'è anche chi non accetta l'idea di aver avuto il dono della bellezza e prova imbarazzo, timidezza. L'idea di un film horror sulla bellezza nasce per porre l'attenzione sulla bellezza che non dura in eterno. Si invecchia, mentre ciò che ci circonda diventa sempre più giovane. Rispetto a noi, cosa accade quando questi due fattori si incrociano? Le donne spesso finiscono per divorarsi interiormente. Però, ecco, c'è un tema, secondo me, anche sotteso nel suo film, che è quello della bellezza oggettiva. Cioè, esiste una bellezza oggettiva? Cioè, si può essere oggettivamente belli? I mean, you can say beauty is the eye of the beholder, which is a general understanding that outer beauty has no meaning if inner beauty has no function. La bellezza è negli occhi di chi guarda. Quella esteriore non ha senso se non c'è una bellezza interiore. È superficiale. È la prima cosa che vediamo. La realtà è che viviamo un'era in cui l'atto di vedere è sempre il modo in cui vediamo il mondo. La bellezza esteriore è molto aggressiva, un'ossessione. Bisogna definire un equilibrio con quella interiore. C'è bellezza nella volgarità e nel glamour. È davvero una cosa complessa. Insegniamo ai nostri figli ad accettarsi per quello che sono e poi siamo i primi individualisti. Non si può negare che le persone nascono diverse. Dunque, accettare la diversità significa accettare l'evoluzione dell'uomo. Si può quindi pensare di creare una propria bellezza, anche se non è una cosa semplice. Create your own beauty, but it's never if you're not born. You can never gonna be able to create it. Il mondo che lui ha scelto poi è stato proprio quello della moda, dove la bellezza e soprattutto il corpo sono un grosso tema. E lui lo tratta mettendo questa cosa estremamente esteriore, estremamente appariscente, con a fianco a dei riti quasi ancestrali, quasi da tribù africane. First, I wanted to make a teenage horror movie. Volevo fare qualcosa che potesse piacere ai giovani, ma anche ai genitori. Non volevo fare una critica al mondo della moda, che trovo invece essere qualcosa di molto affascinante e artistico, e allo stesso tempo anche volgare, pretenzioso, ridicolo. Però va detto che la moda va vista come una forma d'arte, e quindi è una variazione del tempo. È stata importante per definire evoluzioni culturali e filosofiche. Il film è rivolto particolarmente alle nuove generazioni, perché è in età adolescenziale che si comincia ad avere la prima idea sulla bellezza. Ed ecco quindi i primi segni di narcisismo. Per me si è trattato di uno sfondo molto colorato, e questo permette di trasformare il tema horror della bellezza in una specie di favola. Where you can take the horror theme of ultimate obsessions and ultimate beauty much more clear. You know, it's like a fairy tale. Ho visto che sono incontrati prima con Dario, semplicemente, insomma, cosa rappresenta? Ha parlato anche di voleva fare un horror per teenager. Cosa rappresenta Dario Argento per Nicolas? Dario Argento is one of those great artists that took a very commercial medium as genre as his canvas. Dario Argento è un grande artista che ha usato il cinema di genere come una tela e fatto film basati unicamente sui feticci. È una persona molto stimolante, anche se non credo che mia moglie ami molto questo genere di film, pur essendo molto affascinata dallo stile e dalla fotografia. Credo che Dario Argento sia uno dei migliori registi in circolazione, perché ha saputo contribuire all'evoluzione del cinema di genere. Dario Argento, as he's still alive, is one of the most significant living film directors in terms of our evolution of cinema as an art form, but also our evolution of pop culture. Nicolas Winding Refn alla Rosa Purpurea per parlare di The Neon Demon. A questo punto noi prendiamoci un attimo per giocare, per cominciare a giocare insieme sul film misterioso di questa settimana che, ricordo, come da facciamo dalla puntata scorsa, sveleremo fra pochi minuti prima della fine di questa puntata. Che mi possano segare le gambe per poi chiamarmi gnomo. Sto guardando il generale Sanford Smithers. Hai gli occhi buoni, ragazzo. E allora, avete già indovinato, capito di che film si tratta? Scriveteci il titolo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, col vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo fra pochi minuti. Linea adesso alla regia, torniamo fra poco con il blockbuster di questa settimana, Now You See Me 2, vi aspettiamo. La Rosa Purpurea. Tempo di magia alla Rosa Purpurea, perché nelle sale italiane è arrivato Now You See Me 2, il sequel del film omonimo che avevamo visto qualche stagione fa su questi quattro cavalieri che, come dire, con le loro capacità diciamo di rapidità che rasentano la magia, appunto, portano a casa qualche soldino con qualche rapina qua, qualche truffa là, eccetera eccetera, delle sorti di Robin Hood del mago di prestigio. Allora andiamo a sentire subito questa clip e poi ne parliamo. La gente vede i cavalieri come dei nobili Robin Hood, ma io credo che il loro primo atto sia stato solo il preludio a un trucco ancora più grande. Boris, usare l'illusionismo per fare tanti soldi in maniera non del tutto legale è ancora quello che cercano di fare Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, e il cast va avanti, con Michael Caine per esempio. Allora, io mi sono un po' stupito, devo dirti sinceramente, quando nei mesi scorsi ho visto che c'era un sequel di Now You See Me, perché beh, il primo tutto sommato mi aveva abbastanza così, insomma, annoiato, devo dire, però magari non sono il target giusto di questo film. Qual è stato l'elemento secondo te che ha portato addirittura a raddoppiare? Raddoppiare mi sembra esagerato anche a me, francamente, però credo che nasca tutto dal fatto che di solito per fare un grande film sull'illusionismo, nel regno dell'illusionismo che è il cinema, serva sempre un grande regista o un grande attore, e spesso servono entrambi. In questo caso invece loro non avevano fatto un grande film sull'illusionismo, ma avevano fatto dell'ottimo intrattenimento con l'illusionismo e sull'illusionismo, e usando l'illusionismo per raccontare un complotto di quegli heist movie che tanto ci piacciono. Era riuscito alla fine abbastanza bene, era uscito fuori un prodotto pop e popolare abbastanza divertente, con un mestierante della regia come Le Terrier che teneva le redini, con un Woody Harrelson molto in forma, con le uscite di Michael Caine che bastavano e avanzavano, e quindi alla fine aveva avuto un buon successo, e probabilmente alla luce dei conti che sono tornati alla fine di quel film hanno deciso di provarci un'altra volta, mettendoci Lizzie Kaplan, che è sempre un'ottima scelta. Il problema qui però è che tolgono il giocattolo di mano a Le Terrier, che non è un fenomeno, ma che sicuramente aveva dimostrato di saperlo maneggiare, e lo danno a Chu, che è un coreografo di fatto, un ottimo regista di film d'azione, però gli danno una sorta di sequel che è la parte, voleva essere il salto di qualità a livello narrativo. Cioè voleva raccontare i personaggi in maniera più accurata, in particolare il capo di questi cavalieri. E ne esce poi un film verbosissimo in cui tutto viene spiegato, e si sa che sia la magia che le barzellette non possono essere spiegate, altrimenti non funziona, con un regista che sa fare quasi esclusivamente scene d'azione, e si vede in quelle 3-4 volte che ha l'occasione per portarla avanti. Quindi mi sembra un film pieno di scelte sbagliate, e che alla fine porta l'opera, che poteva essere interessante perché aveva delle buone premesse, ad essere sostanzialmente non sopra la mediocrità, purtroppo, e soprattutto per un film così è un peccato, noiosissima, cioè non hai nessuna curiosità nel sapere come andrà a finire, e neanche nello scoprire i trucchi. E allora questo era Now You See Me 2. Noi dobbiamo giocare ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Questa stramaledettissima bufera di neve ci sta mordendo le chiappe da 3 ore ormai. Te la sguagli a metà strada e fili dritto all'Emporio di Minnie? Hai indovinato. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci una mail alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro nome e cognome e il titolo del film, che sveleremo, ve lo ricordo, prima della fine della trasmissione. Quindi restate con noi fino alla fine. Le note immortali di un americano a Parigi, per parlare del prossimo film. Sì, perché Un americano a Parigi, uno dei più grandi classici della storia del musical, forse il più grande musical cinematografico per notorietà, successo, eccetera, ritorna al cinema. Ritorna al cinema proprio questa settimana, lo potete andare a vedere anche in questo weekend nello splendore della sua copia restaurata in maniera digitale, che ha restituito i colori originali scintillanti di questo capolavoro firmato da Vincent Minnelli con la coppia Gene Kelly, Leslie Caron sullo schermo. La storia la ricorderete, quella di questo pittore americano che dopo la guerra si è fermato a Parigi, dipinge in una casa minuscola in maniera un po' bohemienne, va a cercare di vendere i suoi quadri a Montparnasse, non li compra nessuno. Un giorno arriva una signora americana molto ricca e facoltosa, ne compra uno, i due sembrano cominciare una storia d'amore, ma arriva la commessa, la ragazzina della porta accanto, di cui quest'uomo si innamora perdutamente. Insomma, è di là, è tutto un fiorire di balli, canti, suoni soprattutto straordinari, perché hanno la firma di George Gershwin. E scusate se poco, se c'era un'epoca in cui George Gershwin scriveva un musical con le note che avete sentito. Noi ne vogliamo parlare con un esperto di musical come il collega Andrea Borini, che è in collegamento con noi. Ciao Andrea. Ciao Franco, eccomi, sono contentissimo di sentirti e sono anche contentissimo di poter vedere in sala questo capolavoro. Guarda, allora cominciamo con questa domanda. Perché oggi rivedere o vedere, perché per molti giovani sarà la prima volta e sarà un'esperienza straordinaria, perché io questa coppia restaurata l'ho vista, è davvero bellissima. Perché sì, vedere è bellissima, sì. Perché vedere Un americano a Parigi? Perché questi qui sono film fatti per il grande schermo, non tanto per le dimensioni del formato, ma proprio perché è bello stare in sala, stare con la gente, sentire la musica, essere avvolti dall'atmosfera. Poi comunque erano film fotografati e pensati per il grande schermo da Vincent Minnelli, che era un grande sia del cinema, dell'immagine come cinema, ma anche della teatralità. Quindi questo è un film in realtà paradossalmente anche molto teatrale, ma nella sua teatralità scenografica, perché Parigi è tutta finta tranne alcune scene, proprio per questo diventa meravigliosamente, magicamente cinematografico, proprio perché c'è il sogno. Film del 1951, Gene Kelly forse nella sua prestazione migliore. Probabilmente sì, diciamo che è l'apice della sua carriera. L'anno dopo lui farà Cantando sotto la pioggia con Stanley Donen. Comunque sicuramente gli anni tra il 46 e il 52, che sono gli anni della MGM, in cui Gene Kelly è scritturato, questo comunque è la sua fama migliore, anche perché è il direttore delle coreografie dello spettacolo del film, appunto, oltre che essere il protagonista indiscusso, così come protagonista indiscusso di questa grande operazione era il produttore Arthur Freed, che era proprio quello che ha voluto fortemente questo progetto, che era una specie di summa, di antologia delle più grandi musiche di Gershwin, a partire dal poema sinfonico del 1928, mi sembra, insomma, della fine degli anni 20, ed è appunto l'omonimo a Un americano a Parigi. E infatti poi loro due, questo film vinse un sacco di Oscar, ne vinse sei, tra l'altro fu anche un po' scandaloso, perché quell'anno c'era un tram che si chiama Desiderio, ma lui questo film apparentemente più leggero lo batté, andò al Festival di Cannes e vinsero un Oscar onorario speciale proprio Arthur Freed e Gene Kelly, che erano il produttore e l'esecutore vero e proprio di quest'opera, ma quelli che avevano proprio voluto fortemente quest'opera. No, oggi niente chewing gum. Domani chewing gum per tutti. Oh, sentitelo, domani, tomorrow, sa parlare inglese? Buongiorno, buongiorno, noi siamo molto intelligenti, parliamo in inglese. Uno dei momenti più interessanti, esilaranti, ma ce ne sono veramente tanti di questo film, quando poi appunto Gene Kelly si mette a cantare I Got Rhythm con i bambini. Andrea, abbiamo detto del protagonista maschile, anche Leslie Caron, devo dire, niente male, con una carriera che poi, se vogliamo, ha avuto altri film musicali di successo, Papà Gambalunga oppure Gigi, ma che non ha, forse non è poi esplosa come ci si poteva aspettare in quel momento. Sì, come dicevo, forse era il debutto Leslie Caron, perché era francese, e Vincent Minnelli l'aveva vista a teatro proprio poco tempo prima con Roland Petit, e aveva visto che era una grandissima ballerina con una grandissima presenza scenica, molto sensuale. Sì, forse la sua fortuna è stata un po' meno eclatante rispetto ad altre, però comunque appunto questi capolavori che hai citato l'hanno lasciata un po' nell'Olimpo, e comunque ha continuato anche in teatro fino in fondo. Tra l'altro, una curiosità, Leslie Caron è arrivata un po' all'ultimo sul set, perché doveva esserci Sid Cherish, che però in quel periodo era incinta. Ecco, dacci per chiudere una curiosità su questo americano a Parigi. curiosità che una delle cose più meravigliose ovviamente da vedere nel restauro sono i 18 minuti finali del balletto, che da soli valsero ben 6 mesi di preparazioni, un mese di shooting e $450,000 di costo soltanto. Ecco, stavo proprio per dirlo, balletto. Andrea, quando c'erano i soldi per fare i film, perché effettivamente lo spettatore, soprattutto nuovo, vedrà questa cosa quasi come una sorta di corpo che si butta dentro nel film, ma che è un'opera a parte, di una bellezza anche a livello scenografico straordinaria. Sì, incredibile, poi anche molto, molto avanti coi tempi, molto strana, poi era alla fine, quindi non a metà come di solito capitavano questo tipo di scene. Ecco, poi appunto 18 minuti da soli, questo balletto ispirato ai più grandi pittori francesi, Dufy, Renoir, Triglio, Toulouse-Lautrec, Rousseau, compro che le scenografie diventano i dipinti e Ginchelli che balla in mezzo alle immortali musiche di Gershwin, e questo appunto già di per sé vale, anche perché sono 18 minuti che passano in un attimo. Ecco, forse a noi può apparire strano adesso pensare a un film con 18 minuti di balletto, ma è che invece erano proprio il centro all'epoca. Assolutamente, era una vera e propria suite, cioè a un certo punto si apre un angolo nel quale uno trova questo balletto con questa fontana artificiale in mezzo che sembra una sorta di torta nuziale attorno alla quale si muovono tutte le figure, come hai detto tu giustamente, dell'arte francese e della letteratura. Andrea, effetti speciali molto, molto teatrali anche, che vale la pena rivedere sul grande schermo. Sì, anche per fare il confronto con quelli di oggi, ma devo dire che reggono ancora molto bene. Allora, Un americano a Parigi è nei cinema italiani con una programmazione normale, quindi andatevelo a cercare, non perdete l'occasione per rivivere sul grande schermo questo grande capolavoro. Grazie Andrea Borini. Sì, grazie, andate a vedere. E allora, da Un americano a Parigi alla viabilità, ma fra poco torniamo con un'altra proposta in sala, si intitola L'uomo che vide l'infinito e poi la soluzione del nostro game di... La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo arrivati al finale della nostra trasmissione, ma abbiamo ancora un film di cui parlarvi, tra quelli in sala e poi tutto il cinema da vedere in casa. Dobbiamo svelare la soluzione del DVD game di questa settimana e premiare i vincitori della scorsa. Quindi ancora qualche minuto insieme, cominciamo con la sala, ancora una volta, con l'ultima fra le proposte che abbiamo scelto, un film, diciamo, abbastanza classico nella sua conformazione. Si intitola L'uomo che vide l'infinito. Ci sono schemi in ogni cosa. Integrali, serie infinite. Non ho mai visto niente di simile. Da un ragazzetto indiano semi-analfabeta di Madras. Vuoi invitarlo qui? Una lettera per te. Viene dall'Inghilterra. Avevo completato la dimostrazione. Come lo sapeva? Lo so e basta. Non può usare un trucco del genere durante la mia lezione. Se ne vada! Come conoscevi quel teorema? Era nella mia mente. Allora, siamo in India, dove c'è una storia di quelle belle che nascono dal niente praticamente, quella di un matematico, di un grande matematico, tra l'altro una storia vera tratta da un libro che racconta la vita di questo Srinivasa, spero di pronunciarlo bene, Ramanujan, genio della matematica indiana, completamente autodidatta. Abbiamo visto geni della musica o di altre arti completamente autodidatti, ma della matematica no. E questa storia è una storia davvero di quelle che aprono il cuore, no? Che raccontano l'ascesa di un personaggio un po' contro tutto e contro tutti, se vogliamo, fino appunto ad arrivare alla sua consacrazione. La storia è recitata da Dev Patel, che è il protagonista, il matematico indiano. Dev Patel, per intenderci, è il ragazzo del Marigold Hotel, se qualcuno si ricorda quella coppia di film, ma è impreziosita anche dalla presenza di Jeremy Irons. Boris, il matematico, il film sul matematico è diventato ormai un genere, cioè ce ne sono stati anche recentemente molti che hanno anche avuto grandi riconoscimenti internazionali, ed è un genere che alla fine funziona sempre, e dire che magari uno pensa che la matematica sia qualcosa di distante dal cinema. Ma ce l'ha insegnato Russell Crowe, alla fine quel genere è un'equazione, riesce sempre, se sei bravo. E devo dire che voglio partire dal risultato, come fa il protagonista. Alla fine del film io sono andato su internet e ho ordinato il libro, e quindi il film ha vinto. Qual è il pregio di questo film? Quello di raccontare la storia di due uomini su due linee narrative, quella appunto di Dev Patel, che è davvero un bravo attore ed è stato capace di entrare nell'immaginario occidentale in maniera prepotente, nonostante non ne facesse parte, che ha un rapporto con Jeremy Irons, che è questo professore pacifista, anticolonialista, fuori dagli schemi accademici, anche fuori dagli schemi in generale, che gli crede, che crede in lui e che vuole andare oltre i suoi limiti. E poi il rapporto di quest'uomo con l'Inghilterra, che in quel momento era la madre terra, nel senso che appunto l'India era una colonia. E lì ci ritroviamo invece con tutti i limiti di una potenza imperialista che si rifiuta di farsi insegnare qualcosa da chi non considera un suo pari. È un film lineare e matematico, nel senso non ti dà grandi sorprese, tutto è fatto con la logica estrema di un'equazione. Forse l'unico vero difetto di quest'opera è che siamo pieni ormai di film, in particolare sull'India, anticolonialisti e antiimperialisti, però girati con un occhio coloniale, cioè girati dalla parte sbagliata, non dalla parte del ragazzo indiano, che a livello di empatia certo ha lo spettatore dalla sua parte, ma con l'occhio in questo caso dell'inglese e dell'Inghilterra. Questo è forse l'unico salto di qualità che il film non fa. Tra l'altro io prima ho citato, per identificare radiofonicamente Dave Patel, i due film di Marigold Hotel. Ovviamente alle spalle c'era The Millionaire, ecco, diciamo così, il ragazzo di The Millionaire, che ricorderete di Danny Boyle. Boris, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, con L'uomo che vide l'infinito abbiamo chiuso la presentazione delle pellicole in sala. Facciamo così, giochiamo ancora insieme, anzi, sentiamo con cosa avevamo giocato la scorsa settimana. Vorresti mettermelo... Metterti l'anello al dito. Flick e flock. E allora, si trattava di Deadpool, lo avevamo già rivelato la scorsa settimana. Quello che non avevamo rivelato sono i due vincitori: Carlo Liotti di Gemona del Friuli, provincia di Udine, e Francesco Curto di La Morra, provincia di Cuneo. Saranno loro a ricevere il film Deadpool in Blu-ray, che ci facciamo raccontare dagli amici di Fil TV, ed è già con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in home video quello che è stato uno dei massimi successi dell'anno, Deadpool, supereroe con una tuta simile a quella dell'Uomo Ragno, ma in realtà figlio veramente degenere della covata Marvel, parolacciaro, politicamente scorretto e decisamente irriverente. È un film che pare fatto apposta per godere del ribaltamento e dello spregio di tutta la retorica dei supereroi, con questo supereroe assolutamente fuori dagli schemi, anzi proprio contro tutti gli schemi. Il Blu-ray, che al momento è primo tra l'altro nelle vendite home video degli Stati Uniti, è ovviamente di altissimo profilo, imperfezioni non sono pervenute e gli extra sono veramente considerevoli, tra scene tagliate, focus e diversi commenti audio. Devo dire che oltre al Blu-ray il film è disponibile ovviamente anche in DVD, ma anche in una steelbook da collezione in edizione limitata in Ultra HD, che è quel formato che è 4 volte la definizione dell'HD. E allora, insomma, si può vedere bene e in tutti i modi il nostro game della scorsa settimana, Deadpool. Allora, fra poco vi svelo invece il nostro film con cui abbiamo giocato questa settimana, quindi state lì. Prima però, Giulio, un paio di chicche, diciamo, dalla prossima programmazione, dalla prossima settimana delle televisioni, cominciando da un western sempre interessante da vedere, e adesso ci spiegherai perché, che si intitola Ultima notte a Warlock, su Cielo, alle 16 di domenica 12 giugno. La storia è classica, è quella dell'ascesa e della caduta di due giustizieri nel West, chiamati prima a liberare con violenza una comunità sottoposta a violenza, e poi non vi svelo il proseguo. È un grandissimo western questo di Edward Dimitrik, con le facce, i corpi e le parole laconiche di Henry Fonda, Anthony Quinn e Richard Widmark, quindi nomi veramente grossi, pesanti, pieno di tutto quello che ci deve essere in un film del genere, con tantissime tensioni erotiche taciute, un grande senso del mito e veramente delle reminiscenze di un senso tragico, e poi soprattutto anche la capacità di evocare le violenze che sono alla base della nascita di una nazione, visto che il western è proprio il genere fondativo americano. Un grandissimo film, davvero. Grandissimo film, Henry Fonda e Anthony Quinn per me bastano sempre per vedere un film come questo, Ultima notte a Warlock. Martedì 14 invece doppietta Hitchcock su Iris, alle 21 Gli uccelli, alle 23:45 Frenzy. Sì, si comincia appunto alle 21 con gli uccelli, che è un capolavoro, questo riconosciuto di Sir Alfred, che scatena gli uccelli contro il genere umano, dando forma a un film di paura ancestrale, terribile, cinematograficamente astratta e perfetta. E poi invece un capolavoro veramente incompreso, Frenzy, su un uomo sospettato di essere uno psicopatico assassino e un altro che lo è, che è una sorta di gioco sadico del regista che si fa parteggiare per il lato sbagliato del mondo. È una sorta veramente di film summa, pulito e preciso come un classico, ma denso veramente come un saggio di estetica proprio sul cinema di Hitchcock. E allora, questo è l'appuntamento doppio di martedì 14 giugno con Hitchcock. Ciao Giulio, ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. La regia ci sta già dicendo che siamo in chiusura, e allora non mi resta che ricordarvi qual è il film con cui abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. I vincitori, fra 7 giorni, qui alla Rosa Purpurea, sabato alle 18. Un saluto.